Luciani, posso farti una domanda? Mi piacerebbe che tu facessi una trasmissione una sera, una puntata, su qualcos'altro che la politica. Parliamo di Parenzo, un'idea di estetica, di cosa, ma anche di figa, non so io. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Solitamente è molto maleducato, è molto volgare e ignorante. Hai capito? Tu in macchina non puoi fare il cazzo che ti pare come dici tu. E poi tu sei ignorante. Luciani, non devi dire cazzate. Allora, mentre gli italiani ai partiti non danno un euro con la dichiarazione dei redditi, 300.000 euro, una miseria, i partiti i soldi se li prendono da soli, ci sono ancora a disposizione, ieri avevo fatto una cifra, oggi ne spunta fuori un'altra, pensate voi che vergogna, bisognerebbe bloccare con una legge subito, con un decreto questi soldi. Altri 110 milioni di soldi pubblici ai partiti, pronti lì per finanziare non si capisce che cosa. Rimborsi elettorali, detrazioni sulle donazioni, trasferimenti ai gruppi parlamentari. Quasi 110 milioni di soldi pubblici. Quando le persone possono scegliere, scelgono di non dare un euro ai partiti, i quali allora se li prendono da soli. E intanto Brunetta dice a Ferrara: Carogna, servo dei potenti. Oh, Salvini a Radio Padania è sempre uno spettacolo, eh? Dice a Renzi: vai a farti un bagno con l'acqua gelata, va. Quel chiacchierone che fa il fenomeno andando all'ONU a dire scusate ho fatto tardi perché ho salvato l'Europa, che ti viene a dire ma vai a farti un bagno in una piscina di acqua gelata perché veramente ci stai facendo ridere dietro dal resto del mondo. Poi ha dato a Mattarella una richiesta di grazia per un imprenditore di Bergamo. Sono contento di avergli consegnato personalmente in mano una richiesta di grazia per un detenuto che non dovrebbe essere detenuto, per l'imprenditore bergamasco Antonio Monella, che è in carcere da 10 mesi invece di continuare a fare geometra l'imprenditore perché ha avuto la sfortuna di uccidere un rapinatore albanese che si era introdotto nella sua proprietà. Se la prende ancora con Renzi perché dice che vuole reclutare chiunque pur di mantenere la maggioranza al Senato. Mancano i venusiani e i rettiliani e cambia la Costituzione con qualcuno che incontra in tabaccheria. Ecco, se Renzi pensa che gli italiani siano scemi o siano ostaggi, ha sbagliato a capire. Allora ragazzi, vabbè, questa è la polemica politica quotidiana di Salvini. C'è però un elemento che c'è, Parenzo, dimmi. No, vabbè, questa cosa dell'acqua gelata, normale, stupidaggi. Ha detto di peggio l'uomo nostro lì, il legaiolo. Allora, io non ci credo, perché non avverrà, ma c'è la questione della legalizzazione della droga leggera. cioè canne libere, per fortuna possibilità di coltivarla. Sì, sì, ottimo, assolutamente ottimo. Io non ci credo, nonostante ci sia una roba con 200 deputati che hanno firmato un progetto di legge, credo che non avverrà nulla di tutto ciò, perché l'Italia non è pronta a una roba di questo tipo, non è pronta, c'è il Vaticano, le cazzate che dicono sulle droghe leggere. Chi è che ha detto oggi una cazzata? Lo stesso Salvini, ma anche Lupi dice che le droghe leggere, l'ex ministro, ve lo ricordate? Sì, l'ex ministro dei trasporti, che dice che le droghe leggere sono il primo passo verso la dipendenza. Dipendenza da che cosa? Dalle droghe pesanti è una cazzata. Certo, si può essere dipendenti dalle droghe leggere, non c'è dubbio, c'è un sacco di gente che è dipendente dalle canne, che se ne fuma 10 al giorno, e si può avere dipendenza, ma uno può essere dipendente dal sesso, dall'alcol, da tante cose. Nessuno di NCD ha firmato questa proposta. Beh, meno male. Se c'è una priorità, forse la dovremmo dare alle vere liberalizzazioni, non alle liberalizzazioni delle droghe, anche se leggere. Come è dimostrato in tutto il mondo, le droghe leggere poi sono uno dei primi passi verso la dipendenza. Dipendenza forse intendeva uno dei primi passi verso la dipendenza dalle droghe pesanti, ma è una cazzata spaventosa, pieno di persone che sono solo dipendenti da droghe leggere e che dopo essersi fatte di droghe leggere per una vita non si fanno più niente. Salvini, il sesso non fa male, la cannabis sì, cioè a favore della legalizzazione della prostituzione, ma non a favore della legalizzazione della droga. Io non capisco, se si possono incassare soldi dal sesso, perché non si possono incassare soldi dalla droga? Cioè è la stessa cosa. Progetto di legge per legalizzare la cannabis, molte firme. Io sono personalmente contrario, io sarei per la legalizzazione e regolamentazione della prostituzione, perché fino a prova contraria il sesso non fa male, la cannabis sì. Allora, sentite queste cose qui, se non vi sembrano un po' berlusconiane, se l'avesse dette Berlusconi. Cominciamo da Renzi, il quale, ospite della trasmissione di Riotta, in un'intervista allo stesso Riotta, dice che i talk show sono i nemici perché rappresentano, ma sentite, cioè attacca i talk show. Io lo sapete, non ne posso veramente più. Cioè, il presidente del Consiglio non dovrebbe parlare dei talk show. Cioè dovrebbe, a parte che lui è cresciuto con i talk show. Esatto. Va in un talk show spesso molto forte, certamente non il modello per alcuni talk show che magari gli piacerebbero come Quinta Colonna, cioè un talk show dove si fa un casino pazzesco, dove si sente la piazza, anche molto contestato perché spesso viene accusato di produrre, di costruire delle situazioni fatte apposta, eppure attacca i talk show. Veramente sono i vostri nemici nei talk show? Nella comunicazione sì, nella comunicazione il modello del talk show dove si urla, vince chi urla più forte, è esattamente l'opposto al racconto in positivo che noi vogliamo proporre dell'Italia. Scusa, io però non capisco, se dice che nei talk show si urla, a parte uno dovrebbe dire quali talk show, allora perché va da Del Debbio a Quinta Colonna? Cioè che è il posto dove si urla di più. Dubbio. Ma allora poi va nello stesso talk show che è proprio il prototipo dell'urlo, del casino, giustamente secondo me, lui poi va lì. Beh, è incredibile, dai. Oh, la Boschi. Ma va lì perché sa che parla un pubblico non suo. No, ma certo, va lì per mille motivi, perché gli sta simpatico Del Debbio, ma per mille motivi va lì. Però non puoi dire è contro il talk show dell'urlo e poi vai nel talk show che è il... Una follia. Ma dai, su, ma è una cosa patetica. Allora, la Boschi dice che le intercettazioni che abbiamo sentito su Renzi, generale Adinolfi, Letta è un cretino, Napolitano odia Berlusconi, colloqui riservati prima dell'arrivo al governo di Renzi, queste intercettazioni piacciono solamente a chi è appassionato di un genere, cioè il genere fantasy. Adesso va bene tutto, però insomma, alla fine le intercettazioni sono reali, cioè sono colloqui che il potere fa. Poi lasciamo perdere, giusto no saperle, giusto no conoscerle, però non mi sembra che appartengano al genere fantasy, ecco. Il governo deve rispondere sui fatti, il resto è legittimo, probabilmente appassionante per gli interessati al genere fantasy, ma non ha niente a che vedere con l'attività del governo. Vabbè, vedi la banalità, però niente a che vedere con l'attività del governo. No, infatti il governo non c'era prima, cioè il governo è nato proprio in quel contesto di cui parlavano dopo le intercettazioni. Quelle telefonate. Dai, su, in cui si diceva che Letta è quello che è. Poi dice che la pubblicazione è grave e speriamo che sia l'ultima volta. Anche qui, ripeto ancora una volta, uno può essere contento, però se l'avesse detto quando lo diceva il Berlusco, tutti quelli del centrodestra, giù botte, eccetera, eccetera. Quello che è grave è che intercettazioni che non hanno alcuna rilevanza penale, anziché essere stralciate, siano finite ad un giornale e siano state pubblicate. Purtroppo non è la prima volta che succede, speriamo che sia l'ultima. Sì, ho capito, qui il governo non deve sperare. Se la Boschi e Renzi pensano che quelle intercettazioni non vanno pubblicate, le intercettazioni che riguardano Renzi, che riguardano il generale Dinolfi, propongono, se hanno le palle e hanno il coraggio, propongono un disegno di legge che impedisce la pubblicazione di qualsivoglia fascicolo, anche in mano agli avvocati, anche in mano alle parti, prima dell'inizio di un processo. Chiaro? Non è che uno spero che tu sei un ministro, che speri? Cioè, o prendi o fai un progetto di legge che blocca l'uscita delle intercettazioni e te ne assumi la responsabilità, oppure non vai in Parlamento a farti bella e a dire no, qui, su, giù, là. Fai un progetto di legge, qui le chiacchiere stanno a zero, dai. Un assaggio di Freccero, scatenato ieri, ha detto che la Merkel è come Hitler. Carlo Freccero. No, anzi, se la prende con Juncker, scusate, Juncker. Juncker cosa fa con Lussemburgo? A parte che è uno che beve il vino tutto il tempo, cosa, un briacone famosissimo, eccetera. Ma guardate la biografia di Wikipedia, guardate cosa ha fatto questo qua che sembra protestante luterano. 100.000 marchi non denunciati. Che su quello che uno di quelli che hanno governato la situazione della Grecia fino adesso ci sono gravissime accuse di evasione fiscale, eccetera. Juncker, il presidente della Commissione Europea, Freccero ricorda questo, il nuovo ordine mondiale, Freccero. E invece purtroppo è un momento molto importante perché c'è un nuovo ordine mondiale in atto, molto importante. Come Hitler a Ferrero di Rifondazione Comunista, vabbè, ma questo è scontato. Comunque sentiamo lo stesso, la Merkel come Hitler. È del tutto evidente che l'Unione Europea si è comportata dietro alla Germania come una truppa di occupazione della Grecia. Questo è successo. E anche Hollande come Hitler, Renzi, come? Che pure, la Merkel come Hitler. La Merkel come Hitler, dice Esposito. Ha capito bene. Semplicemente Hitler. Traffico veicolare vero. La Zanzara. Guarda che c'è gente strana in giro. Allora, cari amici animalisti, in un comune dell'Emilia Romagna, a Imola, c'è un assessore che si chiama De Marco. Voi dite, perché cazzo parlate di un assessore a Imola? Beh, a parte che è periodo di sindaci matti, di amministratori squinternati che ne propongono di tutti i colori. Ma questo signore dice che non si possono dare sovvenzioni a quelli che vogliono prendere dei cani in adozione, e i cani in esubero dentro i canili vanno abbattuti, cioè i cani che non si riescono a piazzare, non possiamo mantenere dei cani, vanno abbattuti. Premesso che i cani in esubero si abbattono dopo un periodo di tempo che sono nel canile, premesso altresì che se una coppia adotta un bambino io gli aumento la tari perché la famiglia aumenta di una unità, faccio fatica a pensare di dare un contributo a chi si prende un cane. Cioè non posso dare un contributo o un'agevolazione a chi prende un cane, e dopo un periodo che il cane non viene, tra virgolette, adottato, quelli in esubero in un canile si abbattono. Beh, magari l'abbattimento non avviene così. 800 24 00 24. Giuseppe da Crema, buonasera. Buonasera. Dimmi. Allora, volevo sentire, ho sentito la vostra proposta lì che stanno proponendo di legalizzare le droghe leggere e compagnia bella. Sì, meno male, per fortuna, ma non si arriverà a nulla purtroppo. Ma io non penso proprio purtroppo, perché non mi sembra proprio una roba così bella che la gente vada rintronata, mezza drogata, per cosa? Lei ha un figlio? Io ne ho tre di figli. Il più grande quanti anni ha? Ne avrebbe avuto 25, purtroppo l'ho perso 4 anni fa. Vabbè, mi perdoni, non lo potevo sapere. L'altro e non per droga, ma per altre cose, diciamo. Ma gli altri quanti anni hanno? Uno ha 24 anni, adesso la figlia ne ha 21 e l'altro ne ha 18. È sicuro che questi tre non si fanno le canne? Non sono sicuro assolutamente, non ci metto proprio la mano sul fuoco dal momento che fumano tutti e tre. Ma che vuol dire, scusi, perché secondo lei legalizzare la droga significa che vedremo un sacco di gente sbandata in giro tipo zombie? Ma più che gente sbandata, sa cos'è? Che io all'età di 50 anni non riesco a capire cosa, perché se ragazzi o anche i ragazzi, quando eravamo ragazzi noi, si devono buttare, perché devono trovarsi rintronati? Vabbè, amico mio, adesso non possiamo fare qui l'analisi sociologica sul perché uno se vuole fare una canna, ci sono mille motivi. Il problema fondamentale è che i suoi figli, i suoi tre figli, quando, se si volessero oggi fare una canna, lo possono fare in maniera molto semplice, cioè, nonostante il fatto che sia tendenzialmente vietato non farsi una canna, ma insomma avere certe quantità, lo possono fare tranquillamente, la possono prendere dappertutto. Ma siccome la possono prendere dappertutto, perché non legalizzare il consumo? E cioè, perché non fare degli spacci di hashish in giro? Invece di vendere le sigarette, ci sono delle sigarette già di hashish pronte, in cui magari lo Stato guadagna qualcosa, o no? Ma lo Stato, secondo il mio modesto parere, guadagna già abbastanza con le sigarette, senza neanche metterci di farti le sigarette con l'hashish. Sarebbe meglio che lo Stato intervenga per aiutare questi giovani che non hanno bisogno di... Vabbè, ho capito, lei è contrario per principio, così? Ma per principio, perché non la vedo una cosa logica. Va bene, Stefano da Bergamo. Stefano, niente. Maurizio, Parma. Ciao, pronto? Ciao, pronto? dimmi. Ascolta, io telefonavo per la prima notizia che hai dato, quella dei soldi. Ma purtroppo fino al 2017 ci sarà questo tipo di situazione. Ho capito, ma io quello che mi sorprende non è tanto quello, che lo sentiamo, è che tutti i giorni ne sentiamo di queste cose, tutti i giorni, e nessuno fa niente. Bisognerebbe soltanto alzarsi alla mattina e fare una rivoluzione. Perché sono cose scandalose. Ma che vuol dire una rivoluzione? Cose che ne parliamo, una rivoluzione nel senso che ormai siamo talmente abituati a tutto, a sentire queste cose, questi qui che prendono i soldi, non glieli diamo, però li prendono lo stesso. Abbiamo fatto dei referendum, non vengono tenuti in considerazione. Purtroppo è vero, era stato abolito il finanziamento pubblico ai partiti, e invece... E noi niente, tutte le mattine ci alziamo, andiamo a lavorare, sentiamo queste cose. Io ho telefonato perché ero in macchina, mi sono incazzato come una iena. Io ho detto, io telefono, devo sfogarmi, dire qualcosa. Lo so che è una parola buttata lì, ma che finirà nel niente. No, perché Parenzo è a favore del finanziamento pubblico? No, assolutamente sì, non questo, ma assolutamente. Non questo sì, che vuol dire, quale, se no, scusa, se sei a favore del finanziamento pubblico, dillo tutta. Pubblico, non quello che c'era nella Prima Repubblica, ovviamente, dove rimborsavano qualunque cosa, ma un piccolo finanziamento pubblico, certo che ci deve essere. Capito, Maurizio, altro. Parenzo è a favore del finanziamento pubblico per te. Io devo dire che con queste cose del trovare sempre una via di mezzo, una soluzione. Ma la politica, le cose non cambiano mai, il problema è che le cose non cambiano mai. Io ho 50 anni che vado a votare, 50 anni che credo nelle balle che mi raccontano, e 50 anni che su queste cose e su tante altre, ma su queste cose non è cambiato una virgola, se la sono girata, se la sono passata. No, Maurizio, sono incazzato come lei, tanto io sono sicuro che nel 2017 troveranno un altro modo per finanziare i partiti. Sì, come no. Io ripeto, qual è la tesi principale, qual è l'unica cosa che bisogna fare? Se uno vuole dei soldi per fare politica, fa toc toc, cittadino, mi dai dei soldi. Ma hai visto quando è andato? E chi se ne frega? I privati finanzieranno, altrimenti... Ma ad oggi i privati non hanno nessuna convenienza. Pazienza. E chi farà la politica? Si faranno delle leggi per favorire i privati a finanziare i partiti. Ma che solo miliardari, ma quando mai? Dai, su. Giuseppe da Genova, non è così, Giuseppe da Genova, dai. Buonasera. E comunque, Parenzo, guarda, c'è stato un referendum anni fa in cui è stato decretata la fine del finanziamento pubblico, l'hanno rimesso in piedi rubando a destra e a manca, adesso l'hanno mezzo eliminato, fino al 2017 ancora ci sono non so quanti milioni di euro da distribuire. Giuseppe, Genova, vai. Buonasera a tutti, io volevo intervenire sulle droghe, sulla liberazione delle droghe. Io legalizzazione, sono contrario proprio per principio alle droghe, però voglio essere elastico. Io se c'è sto problema si potrebbe anche risolvere legalizzando l'uso e diciamo di queste sostanze, ma però bisogna porre delle regole molto precise. Per esempio, chi non vuole fare a meno di usare lo spinello, di farsi la canna, dovrà sottoporsi a determinate restrizioni. Per esempio, non ho capito, scusa, spiegati meglio. È semplice, ti faccio un esempio molto semplice. Io lavoro in cantiere, ho un elettricista che fino a mezzogiorno è meraviglioso. Dopo mezzogiorno, tra un bicchiere di vino e due canne che si fa, diventa pericoloso, perché lui ti lascia i cavi con la 380 senza terminali isolati e tu sei costretto a camminare con le attrezzature. Pazienza, però... Ti faccio un esempio questo. Poi chi guida quando si è fatto una canna o due non ha la percezione di ma quello che è già succede. Sanzionato, ma che vuol dire? Non ho è che la legalizzazione che produce zombie per strada, ragazzi. Cioè, io sono sicuro che tanto questa cosa qui di cui avete letto oggi, quelli sì? che l'hanno letta, non passerà mai, non passerà mai. E di questo ne sono felice. Io volevo soltanto dirti che, pur essendo contrario, sono comunque disponibile a che, voglio dire, mi farebbe, non avrei nulla in contrario a che ciò avvenisse, pur di porre paletti ben precisi e di individuare delle responsabilità civili e penali nei confronti di queste persone. Antonio Bari. Sì, buonasera. Dimmi Antonio. Ma che c'è, il motorino sotto? Che c'hai? Che stai, il motorino? No, è passato, sto fermo in macchina lì. Io sono favorevole per un semplice motivo, perché così si elimina, primo, la delinquenza, la criminalità che spaccia il contrabbando. Secondo, se uno vuole drogarsi, non c'è bisogno, cioè se è libera la droga, io per esempio non fumo e non bevo, e chi mi impedisce di andare a comprare le sigarette, fumare, oppure di bere il cognac che ho in cucina che mi serve per cucinare? Nessuno, ma non lo faccio. Quindi questo vuol dire liberalizzazione della droga. Sì, non è che se l'alcol è legale siamo tutti alcolizzati, diciamo, no? Bravo. Io va bene Antonio, grazie, ciao. Prego. Alcune voci incazzate giustamente per questa storia incredibile che abbiamo raccontato ieri del bollo che sostanzialmente in Sicilia non lo paga e al posto dei siciliani lo pagano gli italiani, il resto d'Italia. Franco. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche. Vabbè, allora? In regione della loro capacità contributiva. Allora? Capisci che significa? Significa che la gente che non paga il bollo, ce ne sono tantissimi che non lo pagano perché non possono pagare. E allora? Poi un altro da Catania, Stefano. Guarda, in effetti credo che il giornale abbia ragione. Beh, certo, ha ragione. Non è che il giornale prendi dei Sicilia, dati. Qui in Sicilia chi paga viene considerato un po' un fesso. Qui tutti sappiamo come funziona. Chi paga è un cretino. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. Dai, infatti iniziamo, per favore. Dall'ascesa dello Stato Islamico all'immigrazione verso l'Europa, dal boom economico dell'Africa ai suoi infiniti conflitti. Giornalisti, fotografi, analisti, politici, operatori umanitari e cittadini saranno ogni giorno ai nostri microfoni per raccontare ciò che accade al di fuori dei nostri confini. Sono Giampaolo Musumeci e anche quest'anno vi dimostrerò che tutti i luoghi meritano di essere visitati, che tante storie devono essere raccontate, che guerre dimenticate e vicende apparentemente distanti sono molto vicine a noi ed entrano ogni giorno nella nostra vita. Vi dimostrerò insomma che nessun luogo è lontano. Dal 27 luglio alle 16 qui su Radio 24. La Zanzara. Parlano, i nani tacciono, tu non puoi neppure leccare le nostre estremità, tu non sei degno di balzare i nostri sacri calzari. Quando i grandi parlano tu devi tacere in reverente attesa della parola salvifica. Vi salutiamo e benediciamo da Roma, amatissimi figli. Ho sentito bene che cos'è che ha detto l'assessore di Imola sul fatto che i cani in esubero nei canili vanno abbattuti? Risentiamo. Premesso che i cani in esubero si abbattono dopo un periodo di tempo che sono nel canile, premesso altresì che se una coppia adotta un bambino io gli aumento la tari perché la famiglia aumenta di una unità, faccio fatica a pensare di dare un contributo a chi si prende un cane. Tra chi è favorevole al finanziamento, alla legalizzazione della droga leggera, per esempio c'è un esponente dei 5 Stelle che si chiama Ferraresi, il quale con i soldi della cannabis vorrebbe finanziare non so che cos'è, so questo mi sembra un po' più complicato comunque. E dare alcuni soldi, appunto alcune entrate recepite grazie a questa proposta di legge alle forze dell'ordine e ai tribunali per garantire, diciamo, una giustizia più efficace, più veloce. Va bene, Eva dalla provincia di Ascoli, 800 24 0024, Eva. Buonasera a tutti, trovo bellissimo la vostra iniziativa. Quale iniziativa? Per la legalizzazione del cannabis. No, però scusami Eva, abbi pazienza, non c'è nessuna iniziativa, io sono semplicemente favorevole, punto, per cui non c'è l'inizio. Ecco, bene, mi basta quello, mi sono espressa male. Allora? Sono assolutamente a favore. Vabbè, d'accordo, dunque? No, sono a favore perché sto aspettando con ansia che arriva, perché? Io sono consumatrice di cannabis. E si sente? Questo si capisce? No, no, questo si sente, dico, magari... No, non si dovrebbe sentire. Beh, insomma... No, soffro di emicrania a grappolo. Di che soffri, scusa? Di emicrania a grappolo. Sì, è questa emicrania da urlo. Sì, un'emicrania da urlo. E dunque, come curi questa emicrania? La canna aiuta. Sì, la canna aiuta con l'emicrania a grappolo. Rimettiamo le cose a posto. Eva dalla provincia di Ascoli chiama la Zanzara all'ora 19:20 dicendo di essere favorevole alla legalizzazione della droga. Dice anche con questa sua voce, così piuttosto anche quasi da straniera. Sei straniera, Eva? Sì, sì. Sono. Sei? Sono tedesca di origine, ma metà dei miei 65 anni li ho passati in Italia. Benissimo, allora tu sei consumatrice di cannabis, quante canne ti fai? Massimo una al giorno. Ma scusa, una non basta per combattere l'emicrania però. Sì. Vabbè, allora... No, ma è vero, ha ragione su questo, eh? Beh sì, cioè ti passa il mal di testa con una canna? Aiuta a tenere il singolo attacco sotto controllo, sì. Così ti passa più veloce, non devi prendere questi orrendi farmaci, sì. Iniezioni, cose del genere, sì. E serve, e soprattutto come sono, ho anche i terreni, hai sono anche? I terreni, hai dei terreni? E vorresti coltivarli? Ho dei terreni, e se si verifica questa condizione che ci si può mettere a posto per coltivare anche per altri, sì. Per consumo personale, sì. Vorresti molto... coltivare? Va bene, Eva, sì. Fino adesso non posso. Vittorio Forlì, vai. Sì, allora io dico 89.524. Che vuol dire 89.524? I fagioli nella boccia. I fagioli nella? Nella boccia, fagioli nella boccia sono 89.524. Allora? Non l'avete la boccia voi quei fagioli? No, non ce l'abbiamo. Dovete metterlo su perché la trasmissione è questa, così. Cioè? Da domani, boccia coi fagioli, così... Vabbè, saluto Raffaella e... No, vabbè, Vittorio, stai tranquillo adesso. Dici quello che hai in testa, dai, se hai qualcosa in testa, perché non mi pare che hai qualcosa in testa. Vittorio? Va bene. Stefano, provincia di Bari. Buonasera a tutti. Dimmi, Stefano. Buonasera, Cruciani. Allora, io vorrei, confido nella tua pazienza, vorrei parlare un minuto senza essere interrotto del fenomeno della prostituzione che più volte hai toccato, ma con molta ignoranza e con molta presunzione e non dando giustizia al fenomeno. Io sono un vostro ammiratore, io mi auguro che, non dico di farti cambiare idea entro stasera, però che tu possa documentarti e affrontare al meglio questo problema. Allora, io conosco delle persone che lavorano da tantissimi anni in questi pochi centri, ahimè, contro la tratta, ovviamente sulle donne, ecco, e ti posso garantire che tutte le ragazze provenienti da tutte le parti del mondo, quindi africane, rumene, tutte, hanno, io se vuoi posso darti documentazione di tutte queste cose, dunque hanno e affrontano come tappe questo discorso qui. Ovvero, ma scusami Stefano, io ho mai negato che ci sia la tratta delle schiave? No, un attimo. Ho mai negato che ci siano degli sfruttatori? Ho mai negato che ci siano degli sfruttatori? No, un attimo. Allora, io stasera, visto che tu giustamente sei così, vuoi appunto capirci bene, no, non è questione di capirci bene, io ti sto dicendo semplicemente una cosa. Ho negato che ci siano. Ma questo non è un simposio, però, non è un convegno, è un programma radiofonico, per cui bisogna. Ma io non sto facendo un convegno, sto cercando di le persone, la violenza, alla tratta delle donne. Ma non c'è qui non è una trasmissione per sensibilizzare nulla e nessuno. Ma Stefano, perché qui non bisogna sensibilizzare nessuno, è un programma alla radio questo qua, dimmi quello che pensi e vai al sodo, dai, forza. Quello che penso è semplicemente che non va legalizzata la prostituzione. Oh, benissimo, perché? Sarebbe come legalizzare i calci nello stomaco a tua zia. È la stessa cosa. È una stupidaggine colossale, tu lo sai che è una stupidaggine colossale quella che stai dicendo, ma colossale. Vedi, non mi colossale. Fai parlare. Allora, queste persone vengono tolte dalle famiglie con la scusa di trovare lavoro, poi si rendono conto, arrivati in Italia, arrivati in altri stati, che facciamo? Devono fare le puttane. E dunque che facciamo? Ora che cosa succede? Che benedetta queste ragazze, se tu da domani non vai in strada, noi iniziamo ad ammazzare ogni singolo tuo familiare. Mettiamo che succeda questo, succede sicuramente questo. E dunque che facciamo? Ora io ti porto la domanda. No, ma che facciamo? Un attimo, lo dico io. Stefano, che facciamo concretamente? Se non legalizziamo, che facciamo? Concretamente ci vorrebbe tanta più sensibilizzazione nelle scuole. Sensibilizzazione nelle scuole, come i mediatori culturali, questa roba qua. Cioè la sensibilizzazione nelle scuole. Ma guarda che così vanifichi tutto il lavoro che fanno tantissimi educatori. Ma io non vanifico niente, io dico semplicemente che io non voglio vanificare nulla. Chi non vuole fare la prostituta, ma fanno benissimo tutte le associazioni a fare quello che vogliono, non c'entra niente. Posso fare una domanda? Ti dico, con tutte le vere. Non ho capito, ma chi va a prostitute? Secondo te chi è chi va a prostitute? Ascoltami, Cruciato. No, senti, amico mio, però le domande le faccio io. Dimmi che secondo te chi è, chi va a puttane, cosa fa? Commette un crimine? Sfrutta la prostituta, sfrutta la schiavitù. Secondo te, con tutte le puttane che ci sono in giro, è il caso di andare a pagare delle donne? Un miserabile va a puttane. Uno che tra l'altro non sa che quelle donne non stanno lì per loro. Ah, chi va a puttane è un miserabile. Chi va a puttane è un miserabile. Che tra l'altro aumenta e alimenta il fenomeno della prostituzione. Cruciani, tu sei una persona benissimo. Chi va a puttane è un miserabile. Questo è Stefano della provincia di Bari. Perché uno che paga una donna per fare sesso è un miserabile. Sì. Ora, poveraccio, non sa che dietro a questa miseria ci sta lo sfruttamento e la tratta delle donne, queste impoveracce. No, ma la cosa incredibile è che magari Parenzo è pure d'accordo con te, che chi va a puttane è un miserabile. Io sono d'accordo. Io sono d'accordo assolutamente sul fatto che lo sfruttamento c'è. Uno in Svizzera non c'è nessuno sfruttamento. In Svizzera ci sono i casini. No, ma c'è anche sfruttamento lo stesso. Come in Germania? No, quelle ragazze lì scelgono, non hanno il magnaccio. Ci sono varie. Non vengono picchiate o. Ma quello non lo sai. Ci sono casi. Non è che scompare tutto all'improvviso, eh. Non è che... Però sicuramente ha ragione. Io voglio capire se ha ragione Stefano quando dice che chi va a puttane è un miserabile. Chi va a puttane oggi in Italia per strada è un miserabile perché fa. È un miserabile. Bene, Parenzo, due punti. Chi va a puttane è un miserabile. Pubblicità. Somaro che non sei altro tu. Se tu sei somaro senza la coda. State ascoltando un programma offerto da. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Allora, il personaggio è questo. Lo ricordiamo con una cosa che ha detto anche nel recente passato. È il presidente del Napoli, lo riconoscerete, De Laurentiis. Io posso dimenticare, io pareggio una partita, non entro in Europa League. mi farà male un po' la tasca, ma l'altra fortunatamente compensa. Ma tu, ma che figura fai? Ma che credibilità puoi avere? Ciao Platini, mi raccomando, sogni d'oro. Allora, il personaggio è piuttosto vulcanico, lo conosciamo. Secondo un sindacato di polizia, il sindacato della CGIL di polizia, sarebbe avvenuto sabato un episodio incredibile. In partenza dall'aeroporto di Capotichino, stava per andare in Trentino. E praticamente De Laurenti si avrebbe chiesto a un poliziotto, peraltro gli è stato consentito di passare in un varco dove non poteva passare. Avrebbe chiesto a questo poliziotto di portargli il bagaglio. Questo poliziotto avrebbe detto: guardi, presidente, io non sono tenuto a fare questa cosa qua. E lui avrebbe reagito in malo modo, tra l'altro dando una gomitata e aggredendo questo poliziotto. Naturalmente poi adesso i sindacati dicono: quello che è accaduto è vergognoso, dimostra ancora una volta come personaggi che credono di essere al di sopra della legge non amino il rispetto delle regole e il lavoro delle forze dell'ordine, cioè. Io spero non sia vero, spero non sia vero che De Laurentiis ha dato una gomitata a un poliziotto perché non gli porta la borsetta. Recap: Salvini e la droga. Le donne sì, la droga no. Cioè, legalizzare la prostituzione sì, la droga fa male. Progetto di legge per legalizzare la cannabis, molte firme. Io sono personalmente contrario, io sarei per la legalizzazione e regolamentazione della prostituzione, perché fino a prova contraria il sesso non fa male, la cannabis sì. Vabbè, andiamo a Milano. Anthony, buonasera. Buonasera. Ciao, Cruciani. Ciao, dimmi. Allora, Cruciani, prima cosa ti faccio i complimenti per una cosa, perché ti chiami Giuseppe come mio figlio, e quello mi fa piacere. Vabbè, no? È quello che ci frega a noi, dai, forza. Vabbè, no, ma per dire, no. Siccome io, secondo me, io ti sento tutte le sere, no? Perché io faccio l'autista praticamente, e quando torno dalla Svizzera me lo sento sempre alla notte, quello che fate voi durante questo orario. Questa sera sono riuscito a prendere la linea e ho detto: appena faccio il servizio di giorno, devo riuscire a parlare con Cruciani. Allora, Cruciani, semplice è questo: io a te ti considero una persona intelligentissima, perché sai tante cose, perché sei corto e quant'altro. Ecco, però secondo il mio punto di vista dovresti parlare di cose un po' più essenziali. Dovresti parlare del discorso di questi cazzo di politici che ci rubano tutti i soldi, di fondare un partito, di mandare a casa tutta sta gentaglia, di 60 milioni di italiani che non dovrebbero pagare più neanche un euro. Cioè, tutte queste cose. Che vuol dire 60 milioni di italiani che non dovrebbero pagare più un euro, scusami? Assolutamente, come no? Io vorrei vedere se tutti noi italiani, perché io, guarda, faccio 100 metri dall'Italia alla Svizzera, dall'Italia alla, cioè 100 metri dalla dogana, un altro mondo. Mi sai spiegare tu il perché? Vabbè, ma quella è una cosa arcinota, cioè che le cose funzionino meglio, che siano più organizzate dall'altra parte. Allora, se tu sei un padre di famiglia, che prendiamo il nostro presidente Renzi, che lui dovrebbe essere il padre di famiglia per tutti gli italiani, giusto? Sì. Io ho una famiglia, io sono un padre, ho due figli, una moglie, allora cosa faccio io? Prima di guardare la mia famiglia cosa faccio? Vado a lavorare o vado a prendere delle cose e le regalo agli altri, o prima le do alla mia famiglia? E chi è che regala invece? Come che regala? Renzi si occupa delle cose che potrebbe benissimo non occuparsi degli italiani. Per esempio? Ma che vuol dire occuparsi degli italiani? Scusami. Come? Ma perché Renzi, secondo te, si occupa degli italiani? Non lo so, uno può criticare quello che fa, ma tendenzialmente si occupa di fare delle riforme, di creare lavoro, magari non ci riesce, ma insomma, e se no di cosa si occupa? Dei cazzi suoi? Ho capito, però allora se non ci riesce, bisognerebbe mettere un'altra persona idonea, capace, che quando dice tre cose almeno due le faccia, ma le deve fare per gli italiani, non per gli altri, per gli stranieri, le agevolazioni. Io mi faccio un culo dalla mattina alla sera, io potrei fare benissimo che vado lì alla stazione centrale, dove sono tutti i profughi che sono tutti lì, che prendono i panini, tutti, ce ne andiamo tutti a prendere il panino? Ma che vuol dire, Antonio? Non ho capito. Allora, non ho capito che si danno troppi soldi agli immigrati. Allora, andiamo a cose. Allora, andiamo a cose serie. Allora io, allora dimmi, io, fammi un elenco di cose che ti stanno sulle... arrabbiato nel senso ma che... Ma con chi sei arrabbiato? Con chi? Ma no, sono arrabbiato con tutti questi politici che ci governano, che ci rubano a tutti un sacco di soldi. È quello il problema. E poi il problema vero, se dovrebbero fare i politici seri e tutto, i soldi dovrebbero prendere a chi li ha, non a chi non li ha. Cioè? Hai capito? E dunque? E dunque dovrebbero un attimino comportarsi meglio, dovrebbero fare il loro lavoro, loro dovrebbero rappresentare il popolo a servizio del popolo. Ma che vuol dire rappresentare il popolo? A servizio loro. Vabbè, quello si, non si dovrebbero fare i cazzi loro, lo dovrebbero... Sai cosa diceva? Allora, ascolti, ma ti dico un'altra cosa. Sì, lo sai Pertini cosa diceva? Pertini, che il grande diceva Pertini, sì. Diceva il grande Pertini. Sei arrivato a Pertini, sei arrivato. No, è certo, per farti capire, Pertini, il nostro grande presidente Pertini diceva che un governo, se non è a servizio del popolo, va cacciato a pedate nel culo. Vabbè, è quello là, diciamo, giudicare se uno è al servizio del popolo o no, chi è che lo giudica? Quando uno va alle elezioni la volta dopo e sanziona. Ma il problema è che siamo noi italiani, siamo il problema, che li lasciamo fare tutto quello che vogliono. Adesso il problema e sono gli italiani. È il problema. Ma scusa, allora, ma noi vogliamo parlare di che cosa, Crucià? Tu di che cosa parli tutte le sere, Crucià? Mi vuoi dire una cosa essenziale, una cosa logica che tu parli e una cosa che fai per qualcuno in generale? Ma dimmi. Perché io devo fare qualcosa per qualcuno? No, tu anzi, con l'agevolazione che hai, con le possibilità che tu hai, che fai questa radio, questa trasmissione radiofonica, dovresti dire un pochettino più, vabbè, più concreto. Entro, dimmi una cosa, non ho capito, sei a favore della legalizzazione della droga oppure no? Ascolta, io sono a favore di quelli che si vogliono fare tutto quello che vogliono, basta che stanno bene con la loro coscienza e con il loro animo e con il loro corpo, perché anche se uno gli dice di non fare una cosa e se uno ti vuole fare una cosa, te la fatti, gira il palazzo intorno al palazzo e te la combina. E uno deve essere cosciente delle cose da fare. Vabbè. Deve essere cosciente, Anthony, di quello ciao, che deve. Ciao. Allora andiamo alla Spezia, Maria Rosa, buonasera. Buonasera Cruciani, sono dimmi. Un pochino demodé io perché sono anzianotta. Vabbè, però, Maria Rosa, vai. Come? Vai, dimmi, forza, veloce. Allora, sono un ex caposala d'ospedale, no? Allora? E io logicamente sono contraria alla legalizzazione della droga perché ho visto cose, cioè dico questo, non sì, ma la droga leggera, non è che vogliono legalizzare l'eroina, la cocaina, sì, però, cioè, guarda, amica mia, sì, vogliono legalizzare, forse non ci riusciranno mai con un progetto di legge firmato da oltre 200 persone, la droga leggera, la marijuana. Sì, ma la droga leggera per i casi sanitariamente utili, hai capito? Se no poi purtroppo c'è sempre il cretino di turno che sconfina, non so se rendo l'idea, capito? Ecco, e ne ho ma che vuol dire? Ma cosa c'entra? Ma chi lo vuole fare? Lo farebbe lo stesso? Non è che la legalizzazione della droga leggera porta immediatamente a un aumento dei drogati in tutta Italia, anche di droga pesante? Questa è una cosa ridicola che non ha senso. Oggi chiunque vuole, poi uno può dire lo Stato non può legalizzarla, a parte che in alcuni paesi già esiste questa cosa, come sapete, in alcuni stati degli Stati Uniti, in Uruguay, eccetera. C'è quello che c'è in alcuni stati. Ma non è che si elimina poi lo spaccio illegale improvvisamente. Cioè, io ti posso dire questa esperienza che ho avuto, poi ognuno ne trae le conseguenze che vuole. Dimmi, a prescindere che io qual è l'esperienza? Qual è l'esperienza? La logica, qual è l'esperienza? Costruttiva. Qual è l'esperienza? L'esperienza è, in ospedale arriva un ragazzo di 19 anni, un bel figliolo in barella, che stava morendo, dico cosa è successo eccetera, dice sai si è fumato è sbandato, è andato a sbattere. Ma perché quelli che vanno a sbattere perché bevono, non ho capito, non è la stessa cosa? È la stessa cosa, sì, sicuramente, però se si può evitare. Ma che vuol dire evitare? Tutto si può evitare nella vita, tutti i vizi si possono evitare, ma questo non è che si elimina all'improvviso, né la droga, né la prostituzione, né la... sono cose con cui bisogna convivere, bisogna convivere con la prostituzione, bisogna convivere con... Ma che vuol dire si può evitare? Non è che lo eviti in questo modo, per adesso non si è evitato, proviamo quest'altra strada, ciao. Va bene. Get your motor running. Head out on the highway. Allora, Alberto Cagliari, vai. Buonasera, ciao. Ciao, ciao, dimmi, ciao, Davide. Ciao. Allora, favorevolissimo alla liberalizzazione delle droghe. Legalizzazione, leggere. Ragazzi, ma non sì. chiamate solo su questo, mi ha fatto due coglioni così su sta roba. Lo so, però io mi sono prenotato su quello, perché vai, vai, dimmi. Volevo raccontare il parere di un medico del CERT che si occupa appunto dei tossicomani. Ma sei allora, tu il medico, domanda... non ho capito. No, no, no, io non sono medico, no, io lo conosco, quindi sto parlando e gli ho detto, ma lei dottore, lei è favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere o no? Ho detto, certamente. Hai mai sentito qualcuno che è andato a dare il culo per procurarsi uno spinello? No. Non ho capito, ecco, scusa, hai mai sentito? Qualcuno che è andato a dare il culo per procurarsi uno spinello, cioè per, insomma, andava a prostituirsi. No, no, ho capito, per la droga pesante sì, però, È quella, appunto. E quindi, di conseguenza, sono favorevolissimo. Adesso, non è che uno è favorevole perché non ci si prostituisce per le droghe leggere. Esempio un po' rude, però per dire che dando dipendenza, ovviamente, uno commette dei crimini, vende il suo corpo, insomma, fa di tutto. Mentre invece uno... c'è una canna, bene, non ce l'ha, ciccia, buonanotte, non se la fa, non va a rubare, a commettere, a scassinare, insomma, a rubare in casa, a fare cazzate, ecco, capito? Quindi per cui non vedo perché non si debba liberalizzare, ecco. Va bene, Alberto, ho capito, ciao. C'è un tizio leghista, il vice sindaco di un paese, Parenzo, un tizio che si chiama Marcello Mezzasalma. Mezzasalma, pensa che nome, Marcello Mezzasalma, dalle parti tue, Fontaniva, conosci Fontaniva? Fontaniva, provincia di Padova. Manco mi risponde, dove cazzo sta questo? Sarà caduta la linea, vabbè, la solita vergogna, dai. Stasera conduco solo io. Fontaniva, provincia di Padova, il quale leggo sul casino che è successo in Veneto, la sciagura pazzesca, è colpa di mani di potenti, colpa delle scie chimiche, cioè il tornado, quello che ha distrutto un sacco di roba, eccetera eccetera. Io proverei a fare una telefonatina a questo signore, leghista, il quale dice, parla addirittura delle scie chimiche, i potenti, cioè il tornado nel Veneto causato dalle scie chimiche, non ci posso credere, cioè, appena ho letto questa cosa, proviamo un po' a chiamarlo, va? Mezzasalma? Sì. Buonasera, come va? Sono Cruciani. Buonasera, abbastanza bene. Senta, Mezzasalma, ma che cos'è questa storia delle scie chimiche, della sciagura in Veneto provocata dalle scie chimiche? Ma è impazzito? No, io non sono impazzito. Credo che ci sia da fare alcune valutazioni. E quali sarebbero? Oltre allo scibile umano, perché secondo me io non ho basi scientifiche, quindi non è che possa azzardare o no, certo, certo. Di chissà quale genere, però... sinceramente, documentandomi, sì, cercando in giro, avendo visto anche dei cieli di altri continenti, di altre zone, mi sembra davvero strano vedere questi strani graticolati e poi questi strani, scusi? Reticolati che ci sono in cielo, sono delle cose molto particolari. I reticolati. Sono delle cose un po' particolari. E le scie chimiche? Le scie chimiche, c'è chi appunto riferisce particolari situazioni riguardo a questo tipo di metalli pesanti. Quello che io avevo, diciamo, ipotizzato è che questo cambiamento, vedere dei tornadi di tale forza in una regione come la nostra, dove io sinceramente da quando sono bimbo non ho mai visto cose di questo genere, non vorrei fosse legato a situazioni particolari come quelle del MUOS, di Comiso, dell'APE, perché si parlava in questo articolo che avevo trovato. Però scusi, Mezzasalma, ma come fa a collegare un evento naturale, drammatico, a questa roba qui, al MUOS di Comiso? Adesso è anche difficile spiegarlo, alle scie chimiche, agli aerei, ai potenti, ai padroni del mondo. Lei ha parlato di padroni del mondo. Come fa a collegare un evento naturale che può accadere a questa roba qua? Ma è impazzito lei, o no? No, io non è che sia impazzito, non è che possa collegare scientificamente tutto questo. Però lo ha fatto, lei fa l'amministratore. Certo, sì, ma infatti, ma ne assumo ogni responsabilità, non è che mi dia problemi, perché quando si va a discutere, si va a creare dibattito, è normale che si va contro quello che è il pensiero comune. Mezzasalma, adesso non giriamo intorno alla cosa. Sì, tu hai scritto, pensate al MUOS di Comiso, i padroni del mondo che creano il terrore per fini politici ed economici, mettendo gli uni contro gli altri, stanno esagerando. Quante cose ci nascondono? Che ci nascondono i padroni del mondo? Ma guardi, secondo me se uno comincia a valutare, a documentarsi su quelle che sono certe cose che riguardano gli Illuminati, il gruppo Bilderberg, alcune situazioni. Che, lei ma avete mai approfondito qualcosa di questo genere? Che fanno gli Illuminati e il gruppo Bilderberg? Se ognuno vuole valutare personalmente, guardando in internet, guardando alcune... Vabbè, d'accordo, allora, ma che c'entrano col tornado gli Illuminati? Ma vedete, noi secondo me siamo frutto di un meccanismo in questo periodo, siamo purtroppo dentro un qualcosa che va molto oltre quello che noi possiamo conoscere. Io ho ripostato quello che appunto si diceva perché si erano notate delle attività molto particolari da un punto di vista... Ma se uno riporta vuol dire che ci crede, capito? Cioè, se uno riporta una cosa... Ma io non mi pento mica, voglio dire, non è che torni... No, ma d'accordo, io voglio capire il collegamento che lei fa, lo voglio capire sul serio, tra i padroni del mondo, il Bilderberg, gli Illuminati e non so che altro, e il tornado in Veneto. Uno può credere pure... Io penso, ma è un mio pensiero. Ma è certo che il suo pensiero, certo non è il mio. Chiaramente che in questo momento ci siano delle persone molto influenti, molto potenti, sì, è vero, che vanno a modificare quelli che sono i destini delle persone. E dunque anche dal punto di vista climatico? Secondo me, con il MUS di Comiso, per quello che ho potuto sapere da amici che facevano parte di un comitato che hanno votato molto perché non venisse installato in Sicilia, anche questo. Io sto dicendo che quando ho ritweetato quella strana attività magnetica ho detto chissà se può essere che ci siano delle strane influenze, cose particolari che vanno a modificare con un elettromagnetico. Ma chi è che ha interesse? So chi è che ha interesse a scatenare Se lo sapessi forse non potremmo parlare perché magari non ci sarei nemmeno più, chi lo sa. Però che ci siano dei dubbi, sinceramente, non so se vi siete mai posti anche a voi. No. Ma vedere tutti questi strani fenomeni riguarda riscaldamento globale, Francamente no. Che c'entra Orwell? Ma nel 1984 una delle sue opere si parlava di quello che è il Grande Fratello, di quelli che sono i complotti che sinceramente sembrano esserci in questo periodo. Sembriamo tanti piccoli automi che dobbiamo dire ciò che va detto e non ciò che pensiamo. Possiamo uscire dal seminato. Ma per lei posso essere folle. Però Mezza Salma, io non voglio fare riferimenti al suo cognome, Mezza Salma, per carità. No, certamente, anche perché se lei sa un cognome di origine siciliana che riguarda una misura di terreno e non riguarda assolutamente Mezza Salma. Mezza Salma, amico mio. Terreno, ragusana. Amico mio. Posso dirti, caro sindaco della Lega, che era molto meglio quando c'era il dio Po. Perché almeno il dio Po, i vichinghi, quelli con le corna sulla testa. Qualche senso ce l'avevano, senso quella ce roba lì era una roba genuina, almeno, no? C'era una roba. Vabbè, amico mio, torna in te. Mamma mia, Marcello Mezza Salma, uno che fa vice sindaco in un posto e dice che il tornado in Veneto è stato provocato da Comiso, il MUOS, il reticolato, le scie chimiche, i padroni del mondo. Meglio lui di Salvini comunque, In che senso, scusa? Non almeno non si occupa di Rom e si occupa di appunto di scie chimiche, di complotti, di Bilderberg. Meglio lui, fa meno danni lui. Simone da Milano. Ciao, buonasera. Dimmi. Allora, io ho vissuto un anno e mezzo in Olanda, sono stato chiamato da multinazionale, ho vissuto lì, ho lavorato. Io mi sono fatto 5 canne al giorno, vi dico anche di Amnesia Ace, una delle più potenti. Sì. Mi rialzavo ogni mattina alle 6, andavo a lavorare, lavoravo 10 ore, lavoro tuttora in Italia dove ho aperto l'ufficio facendo carriera di questa azienda, ero perfettamente lucido, ho lavorato benissimo, tant'è che oggi sono qua avendo fatto carriera. Avevo un'azienda multinazionale, 500 colleghi, non dico tutti, ma la metà, tutti fumavano. Persone tranquillissime, normalissime. In Italia siamo ignoranti, pensiamo che chi si fuma una canna diventi un fattone, uno zombie che va in giro e diventa una roba, oddio, chissà che cazzo succede, no? Ah, è un fattone. Guarda, non succede niente, semplicemente la persona. È una persona sì, però Simone, non è una regola universale questa qua, non è che l'indicazione sia quella, tu ti facevi 5-6 canne al giorno, che lavoro facevi poi, manager, che facevi? Io oggi sono manager in un'azienda. Sì, ma per carità, ci sono delle persone che sopportano facilmente il fatto di farsi, al di là dei danni che può fare al cervello farsi 5-6 canne al giorno, ci sono delle persone che tranquillamente sopravvivono a questo tipo di ritmo di, diciamo, di droghe, chiamiamole così, perché poi sono droghe, sono. Cioè, ti facevi 5-6 canne al giorno, non credo che lavorassi meglio, semplicemente ti trovi... No, ti trovi a tuo agio, cioè non... non dico meglio, non dico però nemmeno peggio. No, ma però non è una regola, cioè non è che siccome tu l'hai fatto e siccome forse lo fai ancora e ti è andata bene. Ho smesso perché in Italia non mi posso permettere di farmi ritirare la patente se mi fermano e vedono che nel sangue ho una canna fumata 2 settimane fa, una settimana fa, vedono del THC, mi ritirano la patente, non me lo posso permettere che devo lavorare. No, no, ma quelle sono le ridicolaggini della legislazione italiana, non c'è dubbio. Simone, non è una regola universale, però, che farsi 5-6 canne al giorno va bene e non succede nulla, eh. Non è una regola universale. Ma no, perché ogni fisico, ogni fisico, due birre per bene, c'è chi dopo due birre certo diventa molesto. Allora, dalla prima birra in poi vediamo, che è un test, non lo so. No, ma io sarei durissimo con la questione della guida, eccetera. Purtroppo per te, se uno, certo, non la canna di 15 giorni prima, se uno viene pizzicato che la sera si fa 5-6 canne, siccome non tutti sono come te che sopportano, allora devi prendere una bella bastonata. Ma lì sono d'accordo, non si guida. Io in Olanda andavo in bicicletta. Allora, l'altro discorso, se mi permettete, la prostituzione, io me la sono goduta alla grande in Olanda, la prostituzione dove è legale, paghi 150 euro un'ora, serve una, tu la scegli, la persona, la ragazza ti dice quello che fa, quello che non fa, vengono ragazze pulite, sane, normali, che hanno scelto di fare questo. Oppure vai. No, ma molte l'hanno scelto, certo che molte l'hanno scelto. Altre sono state costrette dalla vita, costrette dal loro pappone che poi prende i soldi non so dove. È così, ma tanto ci sarebbe comunque il pappone. Allora meglio comunque cercare di organizzare e limitare al massimo la schiavitù. Fermi tutti, torniamo tra qualche istante, fermi lì. È una cosa indegna la sua trasmissione. La Zanzara. Allora, 800 24 00 24. Signor Varoufakis, l'ex ministro dell'economia greco, fotografato insieme alla moglie in una splendida isola poco dopo essersene andato dal governo, cosa dice? Dice che l'accordo è quello con la Grecia, con l'Europa, è il nuovo trattato di Versailles. Dunque con la Grecia nei panni, in questo caso, Parenzo aiutami tu, con la Grecia nei panni. Ma ha perfettamente ragione. Nei panni della Germania, lascia perdere, la ragione ha torto. No, come si. Ma lascia perdere, che sei a giudicare Varoufakis o non Varoufakis, dai. Ma io sono d'accordo, sono d'accordo con lui, l'hanno ucciso, strangolato completamente. Veramente i greci si sono strangolati da solo. Comunque, l'accordo è il nuovo trattato di Versailles, che vuol dire? Beh, il riferimento al trattato di Versailles, in cui i grandi del mondo si misero attorno a un tavolo. E dunque in questo caso nei panni della Germania. Cioè, definirono il nuovo. Cioè la Grecia mondiale, e la Germania di Versailles. Umiliando i vincitori della guerra, umiliarono i cosiddetti perdenti. Allora, dice Varoufakis, Schäuble ha immolato la Grecia per portare avanti il suo piano di riforma dell'Europa. Vuole un vigilante che metta il veto sui bilanci nazionali. No, ma la cosa assurda. Sì, però la realtà è molto semplice. No, ma io non è che do ragione a Varoufakis. Finché si sta dentro l'euro, queste sono le regole, c'è poco da fare, inutile. Ma è così, c'è poco da fare. Questo lo sappiamo tutti e va benissimo. Il problema è che quegli stessi che hanno fatto questo casino per 20 anni in Grecia, che hanno fatto le baby pensioni, sono gli stessi pronti a votare il piano adesso, a fare i salvatori della... Questo è l'altro. Ma sì, vabbè, ma questo lo sappiamo. No, mica tanto, perché... Ma sì, lo sappiamo, sono stati tutti d'accordo su tutto, dai, tutti, su. Tutti, ma sì, tutti vabbè, ho capito. E ora fanno il doppio cambio, quindi Varoufakis ha ragione dal suo punto di vista. Aveva perfettamente ragione a dire facciamo saltare il banco e facciamogli vedere i soldi. Sì, ma saltare il banco significava tornare alla dracma. No, cioè... è molto semplice, no, tagliare il debito, tu mi devi 100, te ne do 40. Ma no, ma grazie. Quelli gli dicono di no, no. Quelli che saremo anche noi, peraltro. Io non ho capito, se Paolo Liguori, Paolo? Chiamami, dov'è? Paolo? Sono qua, sono collegato con voi, con la Zanzara. Ah, sei collegato con noi? Perché Parenzo mi ha scritto una cosa, ma guarda che Paolo Liguori è d'accordo con me sulla storia delle prostitute. Non lo so se sono d'accordo con lui, lo sento pigro stasera. Beh, è riapparso da poco, stasera l'ho sentito pigro. Allora gli ho scritto perché gli una roba dire, incredibile. Volevo dire, datti una mossa. Pigro è dire poco, pigro è dire poco. Alla fine siete diversi uno dall'altro, ma dividete questa zattera in due. E io penso che bisogna remare in due. Ma lascia perdere, dai, lascia perdere. Sento che remi troppo. Paolo, Paolo, lascia, per favore, per favore, mettiamo, stendiamo un velo pietoso, ti prego. Ti prego. Della collettività, lo ti prego, ti prego. No, ti ringrazio molto, ma ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Allora, non ho capito la cosa delle prostitute. Allora, prima ti voglio dire una cosa su Varoufakis. Sì. Quello che hai detto di Varoufakis l'ha scritto sul Messaggero in un suo bellissimo editoriale il professor Giulio Sapelli. Che non è proprio uno stupido, dice la stessa cosa, ha parlato di Versailles, io condivido, quindi saremo Varoufakis, pazienza, Sapelli, io, qualcun altro, in parte lo va dicendo. Per me qualsiasi cosa che dicono i greci non è credibile. Però, cioè, allora, qualsiasi greco pronunci una parola non è credibile, allora, punto e basta. I greci sono destituiti di fondamenti. Ma i greci o escono dall'euro o se pigliano Schäuble. Perché? Perché è così, perché è così. Tertium non datur, tertium non datur. Sapelli, però leggetelo che è interessante. Detto questo, io ho stimolato Parenzo a essere un po' più aggressivo, un po' più presente sul tema della prostituzione. Guarda, ti dico una cosa semplice, io sono una formazione materialista, semplice. Chi sono gli sfruttatori delle prostitute? Te lo dico chi io. Chi sono gli sfruttatori delle prostitute? I clienti delle prostitute sono i loro sfruttatori. Ma non è vero, ma sono puttanate, ma guarda, ma siete di un moralismo vergognoso, dai. Non è moralismo, è materialismo. Ma che vuol dire materialismo? Ma ci sono sempre stati i clienti, dai, su. Ma che dici? Ah no, i clienti ci sono mai stati. Ma è ovvio, ma sono i primi sfruttatori. Fammi argomentare, la pretesa malsana e sfruttatrice di scopare con 200, con 100, con 50 euro, purtroppo è da uomini miserabili. Ma perché gli uomini, perché gli uomini veri sanno che per vivere, convivere, sedurre, corteggiare una donna e scopare costa molto di più sul mercato internazionale e nazionale. Alla pretesa di sbattere 50-100 euro in faccia a una e di pagarla sotto prezzo, della parola sfruttamento. Ma state senso, dicendo delle cose inaudite. La parola sfruttamento ha un senso, è come se io a un operaio lo prendo con la pretesa di dire: siccome c'è tanta disoccupazione, tu lavori per me al 10% delle tariffe. Ma quello, allora, ma quello è il mercato, così, Paolo. No, ci sono persone, ci sono persone mercato, che si vendono no, per 10 mercato, euro. No, aspetta un attimo, fammi dire questa cosa. Dei miserabili, ma che vuol dire dei miserabili? Si approfittano di donne che sono prigioniere. Scusami, prigioniere ci sono, scusami, Paolo, ci sono prodotti. Aspetta, ci sono prodotti e ristoranti, ma non di stronzate. No, ci, no, sono, no, ci sono merce, persone, ci sono ristoranti che sesso, costano 10 euro. Ci sono ristoranti. Equiparare il sesso al cibo. Ma tu caro, ne fai una questione di prezzo. Ma sei tu che ne fai una questione di prezzo, però. Una questione di prezzo, perché appunto, alla fine, allora te lo dico io. Alla fine chi va con le prostitute? In realtà, ragazzi, mi dovete chiamare voi. Una questione di prezzo. Voi che andate a prostitute, chiamatemi però, cazzo, no, chiamatemi. Voi che andate a prostitute, vergognatevi, miserabili. Bravo. Volete pagare 100 euro per una scopata che costa molto di più. Bravo. Convivete, sposatevi, corteggiate, fate un regalo, regalate un gioiello. Ma guarda che siete. Una cena costa molto di più. Ma con vivete. Con le donne si fa così. Ma vivete in un mondo surreale. Se si tratta le donne a colpi di euro, si è miserabili. Ma che dici, Paolo? Ma che dici? Ma nessuno pretende di essere uomo quando va con una prostituta. Che dici? L'uomo non si qualifica per il suo sesso, l'uomo si qualifica per il suo carattere. Sa che tenere una donna costa. Ma, che, ma sono due piani diversi. Ma sono piani diversi, Paolo. Sono piani diversi. Ma sono piani, io ragiono sul ma piano. Ma tu ragioni io su un piano poi di moralismo. Io non sono miserabile, non sono moralista, però è chiaro che se trovo una ragazza facile per un'occasione posso approfittarne, ma se penso che tutte le volte con 100 euro come un jukebox metto a 100 euro perché costa poco, ma c'è sempre stata questa, ma che vuol dire un miserabile, ma che vuol dire, ma voi siete matti, ma voi siete, e se costa 500 e se costa 500 sono sempre un pezzente, perché quella donna cioè, se io molto di più, se io come mi costerebbe, scusami Paolo, però fermati un secondo, se io come succede oggi, come succede oggi, come ho visto fare davanti a me, non l'ho mai fatto perché non me ne frega niente, non voglio spendere 500 esatto. euro. Che per... hai fare davanti? No, ma mille volte, amici miei, eccetera. A un certo amici punto. Amici tuoi, ma amici non miei. Ti hai levato il saluto. Ma quale, subito, ma quale saluto? Ma smettila. Hanno preso il cellulare, si sono affittati due affittati, russe. Esattamente. Russe, slovacche, slovacche, quello che. Slovacche, per 500 euro. Ma no, ma ho visto davanti a me, ma che 50? Ma che 50? Sono rimasti agli anni a dei poveracci. Eravamo dei poveracci. Ma che italiani? Diglielo, 1000 euro, 2000. Che siete rimasti nel cervello dei poveracci. Ma state dicendo delle cose. Voi state immaginando un mondo a vostra immagine comunque, e somiglianza. Gli sfruttatori delle prostitute sono i clienti. Il mondo non è a vostra immagine e somiglianza. Il mondo è diverso, guarda, è molto più brutto. Guarda, il mondo. Guarda Giuseppe, quelli che portano gli uomini sui barconi sono schiavisti, ma se noi li prendiamo e li sfruttiamo a sottoprezzo siamo noi gli sfruttatori, loro vabbè. Schiavisti, noi sfruttatori, con le donne è la stessa cosa. Ciao Paolo, grazie, ciao. Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao. Meno male, va. Luigi da Napoli, vai. Ciao Giuseppe, buonasera, mi ascolti bene? Sì, sono sì. Sono problemi? Ok. Senti, io ti volevo dire, ti ascolto da anni, vabbè, complimenti, sei inutile perché tu non li vuoi, però il discorso è questo, io vedo razzismo verso il sud Italia, soprattutto da Radio 24, che è una cosa esagerata, cioè io ascoltavo un tuo ascoltatore che diceva di vendere la Sicilia, di vendere la Campania, noi possiamo venderla la Campania, però perché abbiamo qualcosa da vendere. Ma se poi si dovesse domani vendere il Nord Italia, che c'è da vendere? Perché penso che c'è ben poco, polenta, no? Vabbè, queste sono cazzate, vendere il sud, dai, vendere che il sud andrebbe commissariato, la Sicilia che non riesce a incassare il bollo auto per un miliardo di euro bene, e che non riesce ad incassare. Cioè, si può dire che tutto bisogna chiudere tutto, tirare giù la Clair, commissariare, chiudere, finché i conti non sono a posto. Basta elezioni in Sicilia finché i conti ragione, non sono a posto. No, Giuseppe, hai ragione, però fammi parlare. Hai ragione, conosco questo pensiero, però è questo, si dice a Napoli, il giusto non può pagare per il peccatore. Cioè, non si può generalizzare, mi spiego. Poi, lasciando questo discorso a ieri, che era una cosa ridicola, vendere la Campania, vendere la Sicilia, vabbè, lasciamo perdere cazzate enormi. Allora? Ma poi dico, il vostro Paolini, non so come si chiama, il gastronauta, cazzo, non trova mai niente nel sud Italia. No, cioè, ma Sicilia che cazzo me ne frega di Paolini? Ciao Luigi, ciao. Allora, tra l'altro, se non sbaglio, Liguori, mi faceva notare qualcuno, ha messo sullo stesso piano le donne e le prostitute, cioè le donne costano molto di più. Lui ha detto un'altra cosa. No, ha detto questo. Lui ha detto le do corteggiare. No, le donne costano, a un certo punto ha detto, le donne costano. Ma in questo senso te lo sto dicendo. Ma no, ma ha detto proprio, le donne costano. Ed è giusto pagarle, come no? Ha detto questo, corteggiarle, portarle fuori a cena. Corteggiarle, e che vuol dire farle sentire. Ma questa è una concezione ancora più vecchia. Ma è una roba malata. Ma è una roba malata. Essere contro lo sfruttamento è essere malati. Ma che c'entra lo sfruttamento? Ma che c'entra? Perché noi di questo stiamo parlando. Vabbè, ciao. Da prostitute e complice di uno schiavista. Bravi, applausi. La Zanzara. Liguori? Dove sei, Liguori? Paolo? Paolo? Dai, fai squillare sto cazzo di telefono, perché devo chiedere a Liguori una cosina, adesso non vuole intervenire, maledetto. Te le ha suonate. Ma che ha suonato, ma lasciamo perdere, vado. Non mi fare essere volgare, guarda. Le ha suonate. Ma che ha suonato di che? Ma che ha suonato? Partite da un presupposto già sbagliato in partenza. Sfruttamento. Ma sfruttamento, schiavismo. Boh, adesso il cliente delle prostitute sfrutta la schiavitù. Ma beh, di che stai a parlare? È una cosa talmente banale. Ah, siete la follia più totale, dai, su. È banalissimo. Cioè, la cosa che ha detto Liguori, allora, è che anche Berlusconi, la conseguenza è che anche Berlusconi è un miserabile. Capito Paolo? Rispondimi su questo, sei coraggio, che anche Berlusconi è un miserabile. Ma che vuol dire? Che anche Berlusconi di conseguenza è un miserabile, avendo pagato. Allora è un miserabile anche Berlusconi, dillo, sei coraggio. Berlusconi è un miserabile. Stai dicendo a me? Sì, dillo tu. tanto che la pensi come liquori, dillo. No, lui ha detto, io quello che dico lo penso. Berlusconi, avendo pagato delle prostitute, è un miserabile, pure lui. È un miserabile, è un miserabile. Bisogna distinguere tra le escorte e lo sfruttamento della prostituzione. Ah, vabbè, allora sì. Vabbè, allora. Allora Berlusconi no, invece, dai, su. Berlusconi ha fatto le sue cose con le sue escorte, chi te ne frega, ne abbiamo già parlato a lungo, figurati, a me chiedi. No, e allora puoi dire che è un miserabile. Come lo dici dei camionisti che si scuovono per 50 euro una per strada? Ma lì c'è la volontarietà dell'atto, non c'è nulla di diverso. Lì, come in Svizzera, vabbè, dove vai tu, è un male. La conseguenza, se tu pensi che sia un miserabile chi paga una prostituta, sia un miserabile chi paga una prostituta, devi sostenere di conseguenza, avendo Berlusconi pagato delle prostitute, perché dicono di essere. Io ho detto una. No, o lo capisci o non lo capisci. Io ho parlato sempre dello sfruttamento della prostituzione. Ma che c'entra lo sfruttamento? Lui ha detto adesso, Liguori ha detto un'altra cosa. Liguori ha detto un'altra cosa. No, ma è la stessa cosa. Tu hai detto che i clienti sono. No. Tu non hai detto che i clienti sono dei miserabili, anche tu o no? Dicevi sì, bravo Liguori, bravo Liguori. E allora dovresti dire che Berlusconi è un miserabile. Di quel tipo di prostituzione. Ah, di quel tipo di prostituzione. Beh, certo. Di quel tipo di. Ma è chiaro. Ma che ha travolto? Dice che ha travolto. Ha travolto Liguori, ma che ha travolto? Dai, non mi fate essere volgari, dai, su. Ti ha travolto in diretta. Parla di continuo dicendo che sono dei miserabili quelli che pagano 50, 100, 500 euro. Ma dai, su. Travolto, ma che travolto? Su. Gianfranco da Roma, vai. Eccomi, pronto. Adesso non risponde su Berlusconi, no, eh. Chi sono? Risponde Liguori su Berlusconi, non risponde. Gianfranco, vai. Eccomi, volevo dire su De Laurentiis, diciamo, l'incontro ravvicinato che ha avuto col poliziotto. Mi sarebbe piaciuto che il poliziotto, visto che gli ha messo le mani addosso, gli avesse messo le manette e se lo fosse portato via. Quindi la cosa è una cazzata, oppure, perché mi sembra strano, un poliziotto, se magari viene sgomitato, trattato male, portami la borsa, e questo prendersene la via così come se non la fosse. No, ma infatti, anche secondo me, se è partita la gomitata, se questo gli ha messo le mani addosso, adesso va bene tutto, però lì devono prendere e portarlo via, no? Cioè, come minimo fermarlo. Pure, perché simpatico non è. Quindi, vabbè, adesso Gianfranco, questo è un altro discorso. Fermi tutti. Dopo che fai quando vai a dormire, ti sogni traffico. La Zanzara. Ragazzi, veramente siamo messi male, siamo alla frutta. Allora andiamo a Antonella, Roma, vai. Buonasera Cruciani. Ciao Antonella, dimmi. Ciao. Senti, io volevo un attimo intervenire sulla questione della liberalizzazione della cannabis. Allora, io ho lavorato per 4 anni all'antidroga, ma non la polizia, proprio all'antidroga per lo studio scientifico di tutte le droghe. E ti posso garantire che la cannabis è pericolosissima per i neuroni e i centri nervosi del cervello. Comunque, se tu scientificamente ti vuoi aggiornare, puoi andare su politicaantidroga.it e lì ci sono tutte le sperimentazioni. Sì, quella è Antonella, io non metto in dubbio il fatto che possa essere in alcuni casi per alcune persone pericoloso anche fumarsi le canne o possa procurare danni al cervello, ci sono degli studi e per carità, il problema è che ci sono tante cose pericolose in giro, tantissime cose pericolose eppure legali, cioè gli eccessi sono sempre negativi, eppure non è che abbiamo, come dire, il sesso sfrenato può essere negativo, si può prendere l'AIDS se uno non usa il preservativo, eppure non è sanzionato nulla, e si può essere, l'alcol può portare a delle gravissime conseguenze. Io dico semplicemente che sicuramente farsi le canne non fa bene, dopodiché le chiacchiere stanno a zero. Fino adesso tutte le politiche basate sul proibizionismo hanno fallito miseramente, come per la prostituzione, anche per le droghe, o no Antonella, o no? Sì, io ti do ragione per questo, il proibizionismo ha fatto solo danni. No, ma ha fallito. La gente che usa queste cose deve essere a conoscenza di tutto quello va che bene, gli d'accordo, può ma questo ci, ma questo ci sono le famiglie, i genitori, chi vuole leggere le cose le legge, ormai chi vuole, come dire, informarsi sulle droghe, su fanno bene, fanno male, le conseguenze di certi tipi di cannabis, lo può fare tranquillamente. Il problema è che tanto le persone si procurano la droga molto facilmente, tanto vale forse provare una strada diversa, sperimentare la legalizzazione, magari lo Stato incassa qualcosa e si elimina questa ricerca, no, in tutte le strade col piccolo spacciatore che ti dà il pezzo di, che ti dà il pezzo di fumo. Fammi cantare, fammi lavorare, fammi cantare. Te lo dico da amico, amico, amico, amico. E fatti i cazzi tuoi. Beh ragazzi, non ci credo, non ci credo, Parenzo, non ci puoi credere. Questa è la versione remixata, la versione... Ma l'ho sentita già ieri, Oscena. Sì, l'abbiamo... come Oscena, dai, su, Parenzo, Oscena. No, è più bella, a me piace di più l'originale. No, ma che Oscena, ma è fenomenale, è un pezzo... No, è un dico, pezzo di vista, mi piace l'originale, quella originale è la più bella. Questa è veramente una fatta a casa, dai. Una pataccata, dai, insomma, è bellissima, Fedez, è stupenda. Dai, è una roba alla Tra l'altro, Fedez. Una roba alla Fedez, che vuol dire una roba alla Fedez? Una patacca, un rap, è un rapper, può... no? Sì, una è un rap. Una pataccata. Fammi cantare di Antonio Razzi in versione mix, l'abbiamo già un po' presentata l'altro giorno alla fine della puntata, qui nella sua versione quasi integrale. È più bella l'originale, ma fai tu... un sondaggio tra il pubblico per vedere se chi ha ragione. Allora, tu sai, Parenzo, che in realtà Antonio Razzi, per girare questo, c'è anche un video, è andato l'altro giorno in spiaggia ad Ostia o a Fiumicino, non so dove. Non c'era niente da fare al Senato. Lo so, Antonio, c'era niente da fare al Senato? Buonasera, buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori. Io sono andato apposta di lunedì perché lunedì non avevamo niente. Caro, caro Parenzo. Poi tu sei vecchiotto, tu che ne capisci tu di queste cose? Niente, roba giovane, roba per giovani moderni, roba per giovani come me, capito? Tu sei ormai, hai passato l'età di 80 anni. Sì. No, ancora non 40. Allora, no, voglio dire tra l'altro che questa canzone c'è stata una grande collaborazione da parte del figlio di Razzi, c'è grande novità, Sì, mio figlio Jonathan ha voluto per forza questo remix, no? E allora, come se il papà deve accontentare pure i figli, che cioè, capito? Jonathan Razzi, tu non conosci, Parenzo, Jonathan Razzi. Che c'hai da ridere? Non ho capito perché. No, qual è? No, ho riso, ho rimarcato Jonathan Razzi, benissimo. No, che sembra il titolo di un fumetto. Ha realizzato anche lui questo remix. Sì. Allora, ma questo già lo sapevamo, Antonio, ma a Ibiza ci vai o non ci vai alla fine? Sì. Almeno dovresti venire pure tu, perché tu sei uno che piace. Parenzo, non lo possiamo portare perché è vecchio, questo non capisci queste cose moderne. Se tu vorresti Cruciani nel video, fammi capire. No, Cruciani a Ibiza. Ad andare a Ibiza, la presentazione lì. Adesso il giorno 30 lo presento al Gay Village qui a Roma. Dove? Gay Village. Quello non è in Francia, Gay Village. Stato, io non sono mai stato. Ma però... vai, la notizia è questa, che va con Luxuria al Gay Village. Questa è Luxuria, mi ha voluto a tutti i costi. Allora, è un'amica da molti anni, dal 2006, Vladimir Luxuria, ha detto no, devi venire qui, lo devi presentare. Cioè tu vai qui in mezzo ai froci, alla fine. Ma che ci frega, ma che frega, qui sarà tutta gente anche per bene pure. Ma che certo, giorno è che vai? Anche sono per persone come tutti quanti gli altri. Beh, certo. Giovedì 30. Che siano persone per bene non c'è dubbio. Sarebbe bellissimo lì fare, no, è già finito tutto, perché lì sarebbe bello fare una grande diretta. Abbiamo finito purtroppo. Si rende se volete venire siete invitati. Allora, la cosa è questa: Antonio Razzi insieme a Vladimir Luxuria farà il suo ingresso trionfale insieme a questa canzone, a questo remix, al Gay Village. Devo dire che è una grande novità, Antonio Razzi al Gay Village. Tu sei molto amico di tutti i froci italiani, o no? Ma io i trans tutti. Ti piacciono? I trans? Io rispetto tutti. Ma no? I trans ti piacciono? Ma io non ho mai avuto a che fare con un trans. Te lo dico da amico, non ho mai avuto a che fare. Ma con tutte le donne che hai avuto, un trans ti è capitato uno con l'uccello? No, lui ha avuto a che fare con i trans. fughi, non col trans. Con i? Con i? Trans fughi. No, io ho avuto a che fare. Ah, con no, i trans fughi, sì, con trans i trans. Beh, no, io trans fughi, guarda, con tutti, con, quelli, le... con tutti quelli che dopo hanno cambiato partito, Razzi proprio almeno accusato. Certo, ma dai, no, su. Beh, parliamo di lui. Adesso no, stanno a fare il gruppo di Verdini per appoggiare Renzi, ma non è che entri pure tu in quel gruppo? No, tu? Assolutamente, io sono una persona seria e per bene. Io sono stato nominato, io sono stato nominato nel partito, da nel Berlusconi. Partito di Berlusconi nominato partito, giustamente detto nominato e non sono stato come le altre precedenti volte due volte eletto da nominato da Berlusconi e resti con Berlusconi e io resto lì quando, e poi sto bene quando il mio cuore sta bene sono felice sorrisce ti abbraccia ti vuole bene e questo è il bene ma che stanno mondo. A fare hai parlato con Berlusconi di questo passaggio di gente di Verdini che ti dice presidente ma lui ci è rimasto devo male. Dire che ci è rimasto male perché gente che l'ha portato in alto e lo tradiscono così. Ragazzi, io penso che anche tutti gli altri partiti, la stessa cosa, tutti i leader degli altri partiti che hanno nominato, perché purtroppo la legge è questo. Scusami, Antonio, io voglio capire una cosa, ma questo gruppo alla fine cioè, che c'è? C'è qualcosa di losco sotto? C'è passaggio dei soldi, di cose? Ma questo non lo so, questo lo sapranno chi ci va, io non ci vado. Ma ti hanno offerto di andare? Anche se mi danno 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, io so... Voglio rimanere povero, così nessuno mi può prendere i soldi. Ma perché hanno offerto soldi a qualcuno, secondo te? Ma non lo so, questi non lo so. Come probabile? Non... Hai saputo che qualcuno gli hanno offerto dei soldi? Mi so di Rovigo e non mi intrigo. Non ti interessi di queste cose? No, queste cose qui lasci fare. Giustamente hai cose più importanti a cui pensare, tra cui la metto. Bravo Parenzo, vedi che ogni tanto ti viene qualche meglio il gay villa, intelligente. Meglio bravo. Lussuria di Verdini, diciamo. Meglio Lussuria di Verdini o no? Ma guarda, Lussuria che ci conosciamo da 9 anni. Io... Ma te la faresti una bella storia con Lussuria o no? No, beh, no. Che c'entra? L'amicizia è l'amicizia. No, che ne so? C'entra, no, che cazzo c'entra con tutte queste altre cose? Giuseppe, che ne so? Magari ti attira un po' Lussuria. No, ma io sto che buono con mia moglie, ma che cazzo me frega a me degli altri? A proposito di prostituzione, che c'entra Lussuria? Non c'entra niente con la prostituzione. Io una storiella con Lussuria me la farei, lo sai? Anche. Ah, ma sì, ma una storiella così con Vladimir, perché no? Ma tu sei un uomo di mondo, io sono un uomo solo lì di Pescara, capito? Io vabbè, ma che c'è, hai capito? I trans, uno non può andare a trans, non ho capito. Tutti possono andare, possono a proposito di prostituzione, ma un sindaco delle tue parti, l'altro giorno l'abbiamo intervistato, un tale Luciani, mi sembra, vuole fare i manifesti enormi, manifesti enormi con i clienti. Ho sentito, guarda, sono rimasto anche un po'... scioccato che ho sentito la trasmissione che lui dice purtroppo ci abbiamo Razzi qui sì. Per fortuna che ce n'è uno in Abruzzo che lavora ma come si permette e lavora molto ma come si permette questo qua ma come dopo mo ci devo andare io ma le devo fare apposta mi devo mettere d'accordo con uno cioè? A vedere che mi fa la fotografia e mi mette un manifesto per Francavilla cioè vai a Francavilla apposta ti fai ad abbordare una prostituta che mi faccia la fotografia così mettiamo la gigantografia ma mi faccia il piacere come diceva Totò ma come cazzo si fa a fare il sindaco così ma i cittadini di Francavilla ma sicuramente non lo voteranno più chi te l'ha detto a te? Beh, ma te lo dico io ma come cazzo tu dici che è una stronzata ma facciamo le case chiuse questo sì ma non che io mi metto a fare le fotografie e gli faccio vedere così faccio separare già sono molti separati così separano ancora tutti quanti ma no beh, insomma, ha ragione facciamo Razzi, ancora dedicare alle famiglie ha ragione ma Razzi. Un sindaco deve unire i cittadini non dividere i cittadini che amico bello. Caro te lo dico da amico Luciani fatti i cazzi tuoi appunto giustamente che cazzo dico un sindaco deve è il sindaco di tutti i cittadini dillo un po' Luciani fatti io gli dico ad Antonio Luciani che lo conosco bene a parte di farsi un po' i cazzi suoi e non di è che più che altro deve unire i cittadini non dividere perché così mette ancora divisione nelle famiglie e divisione nei cittadini. Allora il sindaco non deve guardare in faccia a nessuno, ed è giusto, ma per il bene dei cittadini, e lo deve tenere insieme, ma non così che fa le fotografie e gli schiaffi vicino allo muro. Ma che mondo stiamo? Dai, su, ha ragione Razzi su questo, Parenzo, beh, dai, questo così uno, no no, assolutamente, così uno si vergogna e me lo fa, vedrai che me lo fa. Ma che si ma facciamo le case chiuse, che almeno pagano pure le tasse, entra i soldi pure al comune. Ah, così non entra niente, così come fa a farlo entrare? Scusa, ma così gli pagano la multa. Ma la droga non la vogliamo legalizzare, no? Tu sai? Io, guarda, io sono contrario, perché già ma dopo, Giuseppe, abbiamo da poco approvato il cosiddetto omicidio stradale. Abbiamo approvato. Vabbè, ma questo che c'entra, dai? No, che c'entra? Cioè, fino a 18 anni di carcere se uno ammazza qualcuno in un omicidio, se è drogato o ubriaco. C'è questo rischio. E che fai? Gli diamo pure la droga? No. Beh, no, va bene. A me, io personalmente sono contrario, personalmente. Vabbè, dimmi una cosa, ma la Corea, hai visto che c'è quel cinese, c'è un cinese che si è fatto fare praticamente una plastica facciale, si è fatto rimodellare il viso per assomigliare a Kim Jong-un, ma non hai letto questa notizia incredibile? Vedi che gli piace fare il sosia. Ma che roba, una roba incredibile, dai, una roba pazzesca. Ma allora, io questo credo che va tutto a favore del leader, del maresciallo Kim Jong-un. Maresciallo, il grande maresciallo. Ma io vorrei tornare su John Razzi. Jonathan Razzi. Ah, scusa. Jonathan, fermo, cioè, un attimo, fermo che c'è la pubblicità, fermo. Ma io non ho mai avuto a che fare con Trump, te lo dico da amico, non ho mai avuto a che fare. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Cruciani, sono felicissimo di avere questa possibilità che mi è stata data, guardi. Io volevo proprio mandarla a fanculo, ma proprio con tutto il cuore. Non ho capito, Parenzo, cosa volevi sapere su Jonathan Razzi? Non ho capito. David? I'll speak to the masses through the media. David! And if you got any good to say to me, you can say it with cash. David, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Davide, che cos'è che volevi sapere su Jonathan Razzi? Non ho capito. Su John Razzi? No, Jonathan. Jonathan. Ah, Jonathan sì. Razzi. Che come James Bond, no? Come ti chiami? Razzi. Jonathan Razzi. Bond. Cosa fa Jonathan Razzi? Beh, lavora in Svizzera. No, ma voglio sapere da lui nella vita. So che tu sei il biografo ufficiale, ma nella vita cosa fa Jonathan Razzi? Lavora, è un operaio, come ero io, un operaio, fa il venditore di elettrodomestici alla Fust, che è un negozio in tutta la Svizzera, un normale operaio. Ci piacciono le femmine, a Jonathan? Quella mi ha trovato suo padre. ma scusami, ma è sposato però, no? No, non è sposato, No. Quindi fate questo viaggetto papà e figlio a Ibiza? Beh, sicuramente vorrei venire, visto che quello l'ha voluto lui, e meno male che c'è un figlio che magari vuole dare una mano al papà. Ma potrebbe esserci un... al figlio, e dare il figlio al papà. Sì, no, ma volevo capire, potrebbe esserci una seconda dinastia di Razzi in Parlamento? Ah, tu speri che qualche... che tuo figlio vada a finire in Parlamento, che dici? Guarda, io ho un figlio che lavora lì, in Svizzera, Jonathan, è Mirko, che lavora a Saragozza. No, però è un bel lavoro, ammetterai con me operario, che è meglio fare il deputato che farlo operario. No, nessuno ha voglia, nessuna intenzione proprio di intraprendere la vita politica. Niente. Che delusione, Perché? Che delusione? Magari il padre era contento, sarebbe stato contento, no, di avere figlio. Ma sicuramente. Come io Kennedy, penso, no? Come tutti i papà d'Italia sarebbero contento, tutte le mamme d'Italia, se il figlio diventa qualcuno o arriva a qualche parte. No, ma dico una dinastia. Scusami, come quella di Bush, Antonio, siccome si parla molto di sesso all'aperto, no? Cioè oggi ci sono delle statistiche per cui va di moda. Fa caldo, di moda, fuori. Sì, anche quello. Tu hai mai fatto sesso all'aperto? Quando ero giovane, sì. Ah, proprio fuori per strada? No, in mezzo ai prati verdi, belle, belle fresche, fresche. Ma quello si sta quando ci avevano 18 anni, 20 anni, capito? In mezzo ai prati, nei prati pure l'hai fatto? Eh sì, era anche fresco, fresco, era bello. Ma allora era un altro mondo negli anni 60. Oggi è diverso, oggi è tutta un'altra cosa. Ma anche oggi scopano dappertutto, cioè... Oh, ci sono quelli che magari fanno, insomma. No, ma ero curioso di capire se anche tu hai praticato questa cosa qua del sesso all'aperto. Ma guarda, quando si è giovane si fa tante cose, almeno nella gioventù. Allora noi non avevamo i giocattoli per giocare. Allora? Allora. Non è che andavi lì a ballare e stava pensando ai giocattoli, andavi per conquistare una ragazza. Ma lo sai, tirartele fuori, portartela a casa. Quello era lo scopo principale. Tu eri fissato. Oggi se tu vai in discoteca, quindi stanno tutte a ballare, tutta cosa così, uno da parte, uno dall'altra, non vale niente. Tu dici che all'epoca si scopava molto. No, ma era tutta un'altra cosa. Oggi forse ce l'hanno tranquillamente come vogliono, prima invece era bisognava conquistare, dovevi parlare, oggi invece forse senza parlare già fanno le cose, chi lo sa. Mi sto di rovigo, non mi intrigo, non intendo che mi metta in mezzo a queste cose qui. No, certo, tu lo sai che però pensa che bello sarebbe, no, scusa, io sono fissato, torno su questo, onorevole Jonathan Razzi. Bellissimo. Vabbè, però un po' speri che tu anche tuo figlio prolunghi la dinastia, no? È chiaro, io sarei un mentitoso, come si dice in spagnolo, uno bugiardo, sì, se direi no, io non voglio che il figlio... Sì. È chiaro, mi piacerebbe, però non è che io lo posso obbligare. No, se non lo vuole fare... Ma sarebbe bravo, secondo te, ha le capacità per farlo, secondo te, sì? Ma le capacità se lo già se l'ambara. La dinastia Razzi. Non è che uno è nato imbarato. Comunque la dinastia Razzi in come Parlamento. Come i Bush, come i Kennedy, beh, sarebbe straordinario. Sarebbe... Beh, chi è che non piacerebbe? Io purtroppo ho perso i genitori, sia mia mamma e mio padre, prima che io. Però vorresti tuo figlio in politica, diciamo la verità. Ma io tranquillamente sì, perché è una bella esperienza di vita, ma io penso che tutti gli italiani se ne dica, tutti quanti vorrebbero arrivarci, ci mancherebbe altro. Tutti ci vorrebbero arrivare. Comunque Parenzo ha definito insieme a Liguori miserabili i clienti delle prostitute. Miserabili. Delle prostitute, non delle escort, delle prostitute. È uguale. No. È uguale, escort. Adesso stai facendo questa distinzione che solo tu capisci. Cioè, sempre, però, anzi, ma potrebbero essere sfruttate anche quelle, dai. Chiunque lo capisce. Ma non lo capisce nessuno, non c'è nessuna differenza. Ma lo sai che mi ha tutuato, fatto un Twitter Simone Ventura ringraziandomi? Di che cosa? Che l'ho pensato che era buono anche farla parlamentare e farla presidente della Camera o del Senato. Ecco. Simone Ventura. Cioè ma quando l'hai detto che vuole Simone Ventura dovrebbe essere... No, io l'ho detto così rispondendo al Twitter, no? Dico, sarebbe anche bello che se tu facessi... Comunque, secondo me tu potresti avere un ruolo con la Corea del Nord di mediazione, così per evitare che facciano dei casini, che buttino delle bombe, queste robe qua. Ma sicuramente sì. Puoi fare un ruolo di mediazione, hai l'influenza per evitare che questi qua facciano dei casini. Io posso tranquillamente rappresentare sia gli americani, sia i giapponesi, sia cioè l'Italia, tu puoi riuscire in quel Europa. Capolavoro, hai visto, no, che io c'è stato adesso questo accordo storico. No, ma ti dico, hai visto oggi sui giornali che sì, questo accordo storico tra l'Iran. Con l'Iran. Tu puoi, puoi avere un'influenza per evitare che questi qua. Ban Ki-moon, sai chi è Ban Ki-moon, no? Sì, lo conosco anche personalmente. No, non è vero. Signor, sì, perché non la può conoscere? Lo conosco personalmente. Signor, ma come conosci Ban Ki-moon? Perché qual è il problema? L'ho incontrato tutte le volte che andavo a New York, allora lo incontravo. E allora dopo l'ho incontrato un'altra volta qui. E che gli dicevi, all'aeroporto, scusa, qui a Fiumicino. Ho capito, vabbè, ma che vuol dire? I codici sono razzi. Ma Parenzo, ma cosa pensi? Io sono un uomo di mondo, io parlo 4-5 lingue, meno che l'italiano. Ho capito, ma lui ti riconosce, se ti vede, ti riconosce o no? Come no? Appena mi ha visto qui all'aeroporto, subito mi ha detto: "Hi, Mr. Yatz, grazie, how are you?" E fine, thank you, Presidente, Mr. Presidente. Capito? Ma quelli, tu veramente puoi evitare, Antonio Razzi può veramente evitare che buttino la bomba i coreani? Dimmi la verità, Anto. Sicuramente che sì. Cioè, tu puoi essere quello che impedisce ai coreani di fare cazzate. Ma se si arriva a delle cose, io posso andare tranquillamente a parlare. Questo conferma che la Corea è un paese del cazzo. Comunque, è un paese democratico. Democratico. Vabbè, caro Antò, ti saluto. Democratico della Repubblica, democratico di Corea. Beh, sì, devo dire. Dove la parola democratico però c'entra poco, diciamo. Ciao Antò, no, presto. No, c'entra. Solo che bisogna dialogare, non buttare le bombe, perché le bombe fanno male, invece parlare non fa male. Ciao Anto, a presto, ciao. Ok, ciao, buona serata, ciao. I'm a real wild one. Allora, andiamo a Mantova, Stefano, vai. Adesso Mantova, Stefano. Dimmi. Poi quando se mi mettono in linea... No, sei in linea, sei in linea, Stefano. Oh. Io sono in linea. Sì, Stefano, sei in linea, dai. Ah no, io sono Marco da Busto Arsizio, non sono Stefano. Vabbè, è uguale, Marco da Busto Arsizio, dai. Vabbè, è uguale. Vabbè, ok, hai detto vabbè, Marco. No, niente, volevo spiegare, no, perché sto qua con una mia amica, non sapevo come funzionava la zanzara. Sì. Speravo mi chiamasse prima che ero in auto. Vabbè, ero da solo. Niente, io volevo dire, quello Liguori che ha detto prima è una minchiata, è una stronzata. Non è vero che le prostitute sono tutte frustate... fruttate, robe del genere, non è vero, è una cazzata. Io lunedì ero in giro, no? A un certo punto io mi sono mai fermato a prostitute e ho detto, ma sì, mi fermo, stavolta mi fermo, voglio vedere un po', no? E ho parlato un po', le ho agganciato 55 euro, dico Cruciani, è stato difficile, non... perché poi alla fine cerco di aderire a certi, insomma, cerco di farmi un po' di paranchi, di valori, la leggere, alla fine l'ho sganciato soltanto 55, ma non ci ho fatto nulla. Cioè, hai sganciato 55 euro, non hai fatto niente? No, non si dai, non si può, dopo mi faccio. E allora che hai pagato a fare? Scusa, non ho capito. Devo andarmi a confessare, non va bene, dai, non va ma bene. Ma perché hai pagato allora? Non ho capito perché hai pagato. Ma cosa è una poveraccia, dai, scusa, non è che era una proprio una. Ho capito, ma che fai? Regali soldi in giro così? Vabbè, sono generoso, sono come Berlusconi. Io vabbè, allora io piccolo sono come Silvio. Ma che mi vuoi dire allora? Che mi vuoi dire? No, che alla fine ci ho parlato, questa qua non è vero che era sotto prima, ma ce ne sono molte altre come questa qua che invece andava lì perché voleva farsi un po' di soldi e voleva comprarsi un negozio in Romania. Cioè non è vero che era sono tutte fruttate. Ma certo che no, immagnate. Ma certo che no. Certo è una cazzata. E poi questa storia qua che ti va. Io non sono mai andato a prostitute, non so se ci andrò, magari ci andrò un giorno, non me ne frega un cazzo. Ma non è che tutti quelli che ci vanno sono dei miserabili. Ma è una cazzata, ma sono delle cose moralistiche di Parenzo e di Cuore. Ma poi dico, ma anche Parenzo che parte con questo moralismo qua, e poi però vuole i matrimoni per i frosi. Vabbè, questo che c'entra? Che c'entra il matrimonio con i froci? Con... Te lo spiego subito che c'entra, te lo spiego subito. Non puoi a un certo punto sbaraccare su un punto di vista con il matrimonio, poi fare dello stesso a pagamento, no, si torna praticamente a, non so, all'epoca vittoriana. Roberto da Torino, il collegamento non lo capisco, Roberto da Torino, dai, Roberto da Torino, vai. Beppe, vai, dimmi. Beppe. Ciao, ciao Beppe, niente, volevo dire al tuo amico Nanetto che miserabile è lui, perché non tira fuori i soldi per andare a prostitute, non ha voglia di spendere. Io ho sempre speso i soldini da quando non avevo 14 bisogno. Anni. Non ne ho bisogno e non sarò certo complice. No, ma non hai bisogno perché a te non ti vogliono nemmeno le prostitute a pagamento, perché sei non talmente brutto. Non ho bisogno brutto. Perché non starei bene, io penso di ma è te. Bellissimo, è bellissimo, io e mi allora diverto. Sei uno sfruttatore. Ma quale sei uno sfruttatore. Perché regalo dei soldi a una ragazza che mi tiene compagnia? Ma è compagnia a te, poveretta, quella gli verrà da vomitare. Ma poveretta? Sei uno sfruttatore, gli verrà da vomitare, ovviamente. Ma io sono contento di essere le uno sfruttatore, ma mi diverto. E infatti mi diverto. E infatti sei una persona schifosa e lurida. Ma quale schifosa e lurida? Va, da quando vai a prostitute, Roberto? Lurido. Ma io vado quando mi capita, quando mi gira il pallino, al posto di uscire con la stronza che mi fa porta cena a mangiare il pesce, mi rompe i coglioni tutta la sera. Devo stare a ascoltare una cretina che. Persona insomma, ecco, lui io vado, spendo le mie 50-100 euro e mi diverto con delle belle figliole senza cellulite. Hai capito, Cruciani? No, ma io, per carità, Roberto, come sfondi una porta aperta? Io non ci vado perché non me ne frega niente, ma hai tutta la mia comprensione nei confronti di quelli... Ma che ci sei andato tu? Ma ci sono andato due volte in alcuni bordelli svizzeri in Austria. Quelli sono sì, un'altra certo. cosa. Quelli ma che quelli, cosa, detto, distinguiamo quelli pure quelli, distinguiamo pure quello, dai, forza, facciamo mille quelli, distinzioni. Però scusa, prima di andare a prostitute, dice Parenzo, chiediamo la carta d'identità a questa. Scusa, sei sfruttata? Non c'è la logica? Se non sei sfruttata ci posso andare, altrimenti se sei sfruttata no. Ma è evidente che... Allora, Roberto, raccontami un po' altre lo cose. Anche i stati, sì, lo sì, sì, vabbè, certo. Chiedi a chiunque. Ma non dire stronzate, dai, Roberto, dai, i casi guarda, sono diversi. Stai facendo una figura stupida. I casi sono diversi, i casi sono diversi. Sanno tutti ci sono quelle sfruttate, sono sfruttate e quelle non sfruttate. Quelle per cui... per strada sono sfruttate. Vabbè, ma comunque, guarda, Roberto sta dicendo un'altra cosa. Roberto è una persona lurida. Ma che lurida? Roberto, rispondi per favore, Roberto. Io frequento dei club dove... Dove ma sono frequentati da tu, ma non ti bellissima gente casa, e dove le ragazze non sono sfruttate. Vabbè, quello vuol dire che tu frequenti dei bordelli tipo quelli che ci sono in Svizzera, che sono un'altra cosa. Ma io sono andato anche in Germania, mi hanno fatto la ricevuta fiscale prima di uscire. Benissimo, ho detto quella è una cosa diversa. Ma che diversa, è uguale, su, è uguale. Ma che, insomma, è uguale. Hai detto una sciocchezza. Esiste il racket anche lì, se lo vuoi sapere. Te lo dico io, no, che sono a favore di queste cose qui. Esiste il racket delle prostitute anche nei bordelli. Ci sono più purtroppo, però. Purtroppo. Però ci sono più controlli. Ma perché ti devi contraddire con te? È una continua contraddizione. Ci sentiamo io? Domani. Ma una continua contraddizione. Cioè, prima dice che sono miserabili, poi no, ma dipende. Se non sono sfruttate nei bordelli, non sono sfruttate. Ma chi te l'ha detto che non sono sfruttate? Vabbè, ragazzi, ci sentiamo domani. Ciao. Ormai è tutto degradato. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. La canna aiuta. Radio 24. La passione si sente.